Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, oggi parliamo di arte, anzi di arte visiva, di pittura. Lo facciamo con un libro decisamente controcorrente di una grande studiosa americana di origine italiana, Camille Paglia, che ha pubblicato col Mulino il libro Seducenti immagini, un viaggio nell'arte dall'Egitto a Star Wars, 296 pagine, 35 euro, tradotto da Biagio Forino. Perché controcorrente? Perché la Paglia se la prende in maniera molto veemente in questo libro contro la geografia, possiamo così dire, che frequentemente circonda l'arte contemporanea. La Paglia vuole tornare alle origini, vuole ristabilire quei canoni estetici importanti sui quali si può fondare soltanto il giudizio estetico, il giudizio critico. Il libro è un viaggio nei capolavori dell'arte occidentale, dall'affresco con la regina Nefertari a Luxor fino ai fotogrammi del film Star Wars di George Lucas. Sono 29 capolavori descritti e spiegati per coglierne il significato appunto esemplare. Ma la provocazione del libro sta nelle prime pagine, nell'introduzione, nella quale la studiosa denuncia appunto il distacco sempre più profondo che si sta manifestando tra l'arte visiva e la gente comune, che non comprende più la provocazione gratuita e l'elitismo della produzione artistica contemporanea. Scrive infatti La Paglia: troppo spesso gli artisti si rivolgono ad altri artisti o alla comunità ristretta dei conoscitori alla moda. Questo processo è una delle conseguenze, secondo La Paglia, avvenuto a causa della deformazione del pensiero della politica progressista dalla quale la stessa Paglia proviene. La Paglia scrive infatti che il progressismo degli anni 60, con il quale io mi identifico fortemente, il progressismo agitatore e anti-establishment fondato sulla libertà di parola, si è evoluto in un utopico mondo dell'agiata classe professionale, con le sue vaghe velleità filantropiche e una strana passività nei confronti di un governo autoritario ed elefantiaco. La Paglia difende anche la religione, sottolineando come questa sia stata una straordinaria forza civilizzatrice nella storia umana, e con questo libro confessa di voler raggiungere, scrive lei stessa, un pubblico generalista per il quale l'arte non è una presenza quotidiana. Con questo libro il lettore è invitato, scrive, a contemplare l'opera, a guardarla nel suo insieme e poi a esaminarla nei minimi dettagli. E questa è della Paglia anche una scommessa sulle nuove tecnologie che consentono un moltiplicarsi delle immagini, ma anche la loro dispersione e soprattutto la loro manipolazione. Scrive infatti La Paglia che l'arte non è un lusso per civiltà avanzate, è una necessità senza la quale l'intelligenza creativa si inaridisce e muore. Quindi è importante ristabilire il valore dei capolavori, di cui adesso parliamo con l'autrice. Buonasera Camille Paglia. Lei insiste nel suo libro sull'importanza dell'arte anche come strumento per difendere la libertà, anzi nelle sue parole l'arte è una necessità. Che cosa intende con questa parola? Penso che l'arte abbia un potenziale spirituale che non è quello definito dal postmodernismo, ovvero che l'arte debba abbattere tutto l'insieme delle convinzioni. Io guardo all'arte come a una religione, come a una porta verso il sacro. L'arte richiede il senso metafisico dell'enormità dell'universo e della profondità della condizione umana. Queste idee non vanno di moda nelle varie università del mondo al giorno d'oggi. Invece ai giovani viene insegnato che devono essere ironici, che devono attaccare l'arte per le sue oppressioni politiche, per la sua distorsione dell'immagine della donna, dei gay, dei neri, delle persone oppresse. Questa ideologia politica è diventata una tirannia e ha avuto un impatto negativo sui giovani in tutto il mondo. Io, come italiana, credo che l'arte sia la strada verso l'anima. Ho una specie di atteggiamento evangelico verso l'arte. È un messaggio che sto cercando di diffondere. Voglio che ogni giovane si apra verso l'arte e permetta all'arte di trasformarlo. Lei inizia il suo libro con un'introduzione nella quale, nelle prime righe, sottolinea l'importanza di trovare un centro, cito dal suo libro, una base di stabilità, identità e direzione di vita. Che cosa intende? Penso che si tratti di usare i nostri occhi, della percezione pratica. Il motivo per cui ho scritto questo libro è che siamo ormai sopraffatti dalla rete. Le cose ci vengono mandate come un flash dallo schermo del computer. Ci sono siti che spesso sono fatti male, ci sono pubblicità che ci arrivano da ogni direzione. Siamo incantati dalla tecnologia miracolosa degli iPhone e dei messaggi internet, Twitter, Facebook e così via. Quello che voglio dire come insegnante è che queste sono tutte chiacchiere senza senso, che ci mandano fuori strada, che ci stanno distraendo. Il nostro occhio ha bisogno di fedeltà, nella percezione ordinaria ha bisogno di una guida. E gli occhi dei giovani che sono distratti dai computer e dagli iPhone, oggi non sanno cosa significhi stare davanti a un grande dipinto e limitarsi a contemplarlo con un senso di appagamento fisico e mentale. C'è un appagamento del corpo mentre i nostri occhi si muovono attorno ad un quadro, per assorbirlo come un tutto, ma anche per muoversi attorno, per esaminarlo, per scrutarlo e per apprezzarne i dettagli e capirne le tecniche. Grandi capolavori come La nascita di Venere di Botticelli sono belli sia visti da lontano che a distanza ravvicinata, dove si possono ammirare i dettagli. I giovani sono decisamente impazienti, vogliono divertirsi in ogni singolo momento. Hanno bisogno di quei processi di cognizione immediate ai quali siamo ormai assoggettati. I giovani diventano impazienti se non hanno questo fuoco di fila di insignificanti stimoli visivi. Gli insegnanti come me hanno il dovere non di cambiare il mondo, perché io amo la rete e sono stata la prima intellettuale a scrivere per la rete. Sono stata una delle fondatrici della rivista Salon.com nel 1995. Amo la rete e non c'è modo di fermare questo progresso verso il cyberspazio, verso la realtà virtuale del futuro, ma è compito di un insegnante cercare di catturare ciò che è andato perduto. E io credo che il senso di identità dei giovani, il senso della loro vita interiore, siano minacciati da questo costante fuoco di fila visivo nel quale sono immersi, da quando si svegliano al mattino e controllano i cellulari fino a sera. Ed è solo l'arte che li può salvare, e la contemplazione delle opere può ristabilizzare i loro occhi. Ascoltando la radio, lei confessa di aver notato la grande ostilità che c'è nei confronti dell'arte e degli artisti, almeno negli Stati Uniti, da parte dell'opinione pubblica. Come sta evolvendo? Come spiega le ragioni di questa ostilità? In the United States, negli Stati Uniti non si parla affatto di arte, mentre in Europa l'arte fa parte dell'eredità del passato, fa parte dell'identità culturale dell'Europa, che risale a migliaia di anni fa. Ma l'America è un paese molto giovane. Siamo un paese con una natura sterminata, con belle montagne e bei fiumi. E questa è la nostra arte. L'arte è la natura stessa qui. Ma siamo anche un paese di macchine. In America c'è un grande amore per le macchine, per via della tecnologia, delle automobili. Abbiamo inventato Hollywood, con la magia dei proiettori e di tutto quel mondo. La cultura popolare e i mass media sono molto forti negli Stati Uniti. Abbiamo inventato il jazz, il rock and roll e anche la tradizione del blues afroamericano è molto forte qui. Ma non le arti visive. E temo che questa ignoranza sulle arti visive si stia diffondendo tra i giovani in tutto il mondo. Giovani che si stanno allontanando dalle loro tradizioni, dalla loro eredità culturale, soprattutto in Europa. Penso che sia ovvio che i giovani un po' in tutto il mondo, Europa inclusa, abbiano molto più interesse per i film, per la musica, per lo sport, che per l'arte. Perché l'arte non è stata presentata in un modo che potesse parlare a loro della realtà attuale. E questo è il problema. L'arte appare come pretenziosa, elitaria, lontana dai problemi di ogni giorno, ma non è così. La grande arte è la voce stessa dell'umanità. Nel suo libro lei dà la colpa della degenerazione di cui ci ha parlato anche alle politiche, al pensiero liberal, al pensiero progressista americano. Che cosa ha combinato questo pensiero per rendere il concetto di arte così astruso e così lontano dall'opinione pubblica? Liberalism has been very destructive to art in the past Credo che il liberalismo sia stato molto distruttivo per l'arte negli ultimi 50 anni. Io stessa sono una democratica, ho votato per Obama, ho votato per i Verdi, ma sono molto scontenta per come il liberalismo ha finito per diventare un ostacolo per l'arte. Negli ultimi decenni, fin dagli anni 60, quando ero al college, questo è stato l'approccio politico verso l'arte. I liberali hanno ridotto l'arte a un messaggio politico, hanno chiesto che l'arte si conformasse ad una visione del mondo politicamente corretta, condannando l'arte che offre una visione politicamente corretta delle donne o degli omosessuali. Questo è terribile, è propaganda. Questa è la visione dell'arte che avevano Hitler e Stalin, era la visione di arte in Oscar Wilde. Nel XIX secolo Oscar Wilde e i suoi eroi, Baudelaire e Gautier, venivano attaccati perché credevano che l'arte fosse trascendente, che non avesse l'obbligo di occuparsi di temi politici. Certo c'è anche dell'arte politica, ma c'è anche arte politica che viene imposta. Per me l'arte politica trascende il suo tempo, la sua origine. Non deve essere una semplice maschera per l'ideologia, ma questo è ciò che viene insegnato in tutte le più grandi università. Si insegna che l'arte sia un mezzo per le élite per mantenere il potere. È ridicolo, è una visione filistea dell'arte, fatta da gente che non conosce l'arte. Però in tutto il mondo sono loro i più grandi professori. Oggi nelle università non si può parlare positivamente dell'arte, non puoi apprezzare l'arte, non puoi dire che l'arte è bella. Queste cose vengono considerate ingenuità. Come italiana considero questa come un'offesa. Ho passato tutta la mia carriera come insegnante in scuole d'arte e non è un caso che io mi trovi bene tra gli artisti, ma sono in guerra contro quei professori che nelle varie parti del mondo uccidono l'amore per l'arte nei giovani. Un libro molto polemico contro l'arte contemporanea è quello di Angelo Crespi, giornalista del Centro Universitario e organizzatore culturale, che si intitola Ars Attack, il bluff del contemporaneo, pubblicato da Giovanni Levi, 104 pagine, 10 euro. La proposta dell'autore è scioccante, distinguere quello che è arte da quello che lui chiama sgunz. Che cos'è lo sgunz? Non è, scrive, è o non è un oggetto che deve massimamente tendere all'orripilante, all'informe, all'insensato, meglio se tutto insieme, deve essere il più nuovo possibile, questo è imprescindibile, deve autodefinirsi come arte e avere un pubblico che, pur non capendone la portata, applaude entusiasta al suo valore. E quindi questo mercato annovera, aggiunge, storici e critici, curatori e giornalisti, collezionisti e pubblico osannante, galleristi e direttori di museo, restauratori, un ugolo neppure troppo esteso di happy few che governano quello che viene definito art system. Come sentite, un atto di accusa molto pesante al sistema dell'arte contemporanea, che favorisce un circuito perverso, scrive l'autore, che alimenta la deformazione del concetto stesso di arte, arte che ormai si è assolutamente mercificata. Scrive infatti Crespi, di qua dell'oceano le classifiche le fa chi mette i soldi, che si tratti di Mr. Saatchi o di Monsieur Pinault, due grandi collezionisti, uno britannico e l'altro francese. Di là sono direttamente le multinazionali travestite da gallerie a decidere i nomi, il più delle volte concordati con i grandi collezionisti che poi finanziano il tutto, le quotazioni e la durata delle carriere. Insomma, conclude l'autore, l'opera d'arte non esiste più, esiste l'artista, l'importante è il marchio di fabbrica. E del resto si sta manifestando un certo ripensamento anche presso i protagonisti di questo sistema. Lo stesso Charles Saatchi, il grande collezionista britannico, ha scritto, cito dal libro di Crespi, di trovare questo nuovo mondo dell'arte profondamente imbarazzante, e critica gli artisti perché realizzano opere, come scrive lui, post-concettuali incomprensibili, definisce collezionisti oligarchi che si servono dell'arte come strumento di consenso sociale, bolla i curatori di essere inadeguati e insicuri, schernisce il pubblico affetto da delirio modaiolo. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, parliamo adesso di libri di narrativa e comincio con un libro che è la seconda prova a stampa di un giovane scrittore italiano, Alessandro Mari, di cui avevamo parlato quando uscì il primo romanzo, Troppo umana speranza. Questa ultima prova si intitola Gli alberi hanno il tuo nome, pubblicato da Feltrinelli, 346 pagine, 17 euro. Quello di Mario è un romanzo singolare perché fa scorrere in parallelo due storie. La prima è quella di Rachele, una psicologa portata a entrare in un forte rapporto di empatia con gli anziani ospiti, uno in particolare della casa di riposo presso la quale lavora. Rachele è fidanzata con Ilario, sostanzialmente un bravo ragazzo, ma scopriremo debole e portata a qualche compromesso di troppo nella gestione di una società di marketing per il terzo settore. L'altra storia è quella di un giovane umbro del 200, Cesco, che progressivamente divorato da una crisi esistenziale farà la scelta più radicale, tornerà al suo nome vero, Francesco, e si consegnerà a un regime di assoluta povertà. E le due storie si incroceranno alla fine. Rachele, colpita dalla morte di uno dei suoi pazienti appunto e sconvolta dalle compromissioni del compagno, già assorta nella lettura di un libro su San Francesco, tenterà una scelta analoga a quella del santo di Assisi, una fuga radicale dal mondo, e si rifugia in segreto ad Assisi, si verso il Monte Subasio e tenta di sfuggire fatalmente alle ricerche dei genitori e del fidanzato, e proprio in questa fase capirete il significato del titolo. E nelle ultime righe del libro si intrecciano i due destini, quello di Rachele e quello di San Francesco. Un libro suggestivo anche per la cura con la quale è ricostruita la storia di San Francesco, in particolare la sua lotta contro la famiglia, contro la gerarchia, contro i suoi stessi compagni. Un libro del quale protagonista silente ma dominante poi è la povertà. Per Ilario, più indifferente che cinico, la povertà diventa un'occasione per una dignitosa carriera, per Francesco invece un autentico matrimonio. Perché al sollievo dei poveri il santo dedicherà tutto se stesso, rinunciando ai minimi agi, come annuncia fin dall'inizio della sua attività pubblica, con un gesto rivoluzionario rimasto nella storia e nella leggenda, quello della spogliazione delle vesti, che viene così ricostruito nel libro. A un palmo dagli stivali di Pietro Bernardone, ripiegate con cura, c'erano le brache, la camicia, la veste scarlatta e la cintura. E accanto a quelle, gli stivali e il mantello di suo figlio, che distava due braccia da lui, e lo guardava. Nudo, come Pietro l'aveva veduto nei primi anni, e poi uomo nelle grandi tinozze spartite durante i lunghi viaggi, quando si erano lavati via insieme la polvere delle strade. Si copriva goffamente con una mano e con l'altra si reggeva il ventre. Ho scelto un altro padre, Padre nostro. Spogliato e sporco, arrossato di freddo e solo, ciò nonostante osava parlargli con quel tono imperioso. Pensò Pietro Bernardone, riconoscendo in Cesco ogni propria imperfezione, fallimento, ogni carezza e chicca concesse senza risparmio. È andata sciupata. E vi restituisco tutto, disse Cesco premendosi forte il ventre, ma fu come se spremesse fuori dallo stomaco le parole che furono poi le labbra a pronunciare. Tutto ciò che vi appartiene. E restiamo su San Francesco con il libro di uno storico di Milano, studioso del francescanesimo, Grado Giovanni Merlo, che si intitola Frate Francesco e pubblicato dal Mulino, 182 pagine, 15 euro. Perché un nuovo libro su San Francesco? Risponde l'autore spiegando di voler presentare la figura e l'esperienza umana e religiosa di Frate Francesco nella concretezza della società civile ed ecclesiastica e della dinamica delle più ampie vicende degli inizi del secolo XIII. Aggiungo io, lo fa anche ricorrendo frequentemente alle stesse parole di San Francesco tratte dai suoi scritti. In effetti, ci spiega l'autore, su San Francesco c'è molta geografia e relativamente meno storia, e si parte proprio dalla conversione che abbiamo ricordato poco fa per illustrare poi l'estensione del modello francescano, la nascita dell'ordine, la crisi dovuta alla grande tentazione che culmina nella stigmatizzazione che, secondo l'autore, seguendo le cronache dell'epoca, aprirebbe la fase finale della vita di Frate Francesco dandogli nuova energia. In realtà realtà questo turbamento, ci spiega Merlo, sarebbe indice delle difficoltà che lo stesso fondatore ebbe con i francescani, difficoltà dalle quali esce nell'accettazione, scrive, nella partecipazione agli immani dolori del crocifisso come decisione risolutiva e liberatoria. Un approccio che culmina nella scrittura di uno dei primi e più struggenti documenti della letteratura italiana, e cioè il Cantico di Frate Sole. E San Francesco troviamo protagonista di due bei libri sul Medioevo, due libri che sarebbero piaciuti, tra parentesi, proprio a Ilario, uno dei personaggi di Alessandro Mari, che è un appassionato di libri sul Medioevo. Il primo è curato da un grande, grandissimo storico francese, Jacques Le Goff, che è anche un grande studioso di San Francesco, e si intitola Uomini e donne del Medioevo, pubblicato dalla Terza. 448 pagine, 35 euro, tradotto da Carlo De Nonno. È un'opera più voci in cui si ripercorre la storia del Medioevo attraverso le figure politiche e culturali più importanti di quell'epoca. Alcune figure anche immaginarie, per esempio Re Artù o Robin Hood, che sono però entrate nell'immaginario collettivo. E proprio Le Goff scrive di San Francesco e Santa Chiara, che troviamo anch'ella nel libro di Mari, concludendo sul santo con queste parole: Francesco resta oggi, contro la tradizione cristiana che lo ha preceduto e che è continuata dopo di lui, il grande apostolo della povertà, della natura e anche dell'allegria, e un santo moderno. Una lettura non agiografica e non romantica di San Francesco troviamo nel libro di uno storico americano, William Chester Jordan, Nel nome del Signore, l'Europa dall'anno 1000 alla fine del Medioevo, pubblicato dalla Terza, 444 pagine, 24 euro, tradotto da Giovanni Ferrara degli Uberti. Questa è una suggestiva ricostruzione del Medioevo, in particolare dallo sforzo della Chiesa e dei grandi papi del Medioevo per affermare l'autorità della Chiesa stessa contro il potere civile, contro l'imperatore, e l'impatto che queste tensioni ebbe sulla cultura, sulla politica, sulla religione, in un periodo che fu molto più vivace di quanto normalmente non si immagini, un periodo anche di straordinarie innovazioni, come per esempio testimoniano le grandi basiliche del gotico che fiorirono in tutta l'Europa. E uno storico italiano, Alessandro Barbero, ci dà sei storie sul Medioevo nel libro Donne, Madonne, Mercanti e Cavalieri, pubblicato dalla Terza, 130 pagine, 14 euro, nel quale sono raccolte le sei lezioni tenute nel 2011-2012 al Festival della Mente di Sarzana, che ci presentano altrettanti protagonisti del Medioevo, cioè Salimbene da Parma, Dino Compagni, Jean de Joinville, Caterina da Siena, Christine de Pissan e Giovanna d'Arco, attraverso i quali leggere la società dell'epoca anche per certi tratti comuni che emergono tra le loro personalità. Per esempio, scrive Barbero, per l'estrema spregiudicatezza e libertà di giudizio che li caratterizza tutti, e per la totale assenza di retorica, formalismo e ipocrisia, per la rilevanza della politica, per la ricchezza di una fede religiosa che sostiene tutti ma che per nessuno, tranne forse che per Santa Caterina, esaurisce interamente in sé l'esperienza della vita su questa terra, e infine per la netta separazione per cui gli uomini si identificano e si realizzano nella scena pubblica e le donne invece nella scena privata, tra gravidanza e maternità. Vi segnalo adesso due libri sul tema che ricorre nel libro di Mari, e cioè la povertà. Il primo è quello di Serge Pogam, che è uno studioso francese, che si intitola Le forme elementari della povertà, è pubblicato dal Mulino, 292 pagine, 28 euro, tradotto da Rinaldo Falcioli. Questo è uno studio che risale già a qualche anno fa, ma che viene aggiornato nelle considerazioni iniziali alla edizione italiana, esaminando in particolare l'impatto della crisi che ha messo a dura prova i meccanismi di protezione sociale inventati in questi ultimi secoli, in questi ultimi decenni, per proteggere i poveri. Ma l'accentuarsi della povertà, secondo l'autore, non ne ha modificato le forme in cui questa si presentano, che sono sostanzialmente tre: la povertà integrata, la povertà marginale, la povertà squalificante. La prima è quella che non fa scandalo, nel senso che ormai le società si sono abituate a una certa fascia di povertà che appare normale e sono rassegnate a questa prospettiva, ed è questa la prospettiva soprattutto del Sud Europa, e qui si parla in particolare dell'Italia. La povertà marginale è quella molto ristretta dei paesi ricchi, in cui appunto i poveri sono una componente minoritaria, e infine la povertà squalificante nella società attuale, dove vaste fasce di popolazione sono spinte fuori dal mercato del lavoro in seguito appunto alla crisi. E allora, conclude l'autore, è necessario rivedere le politiche a favore della povertà. L'aiuto ai poveri, scrive, si presenta come una necessità ineludibile nelle società democratiche, ma non può che portare alla formazione della categoria assistita, tradito dallo statuto sociale svalorizzato e con buone probabilità di subire profonde umiliazioni nei rapporti con i servizi sociali. E questo spiega la ragione dell'esigenza di modificare radicalmente e urgentemente le politiche sociali a favore della povertà. Una risposta alla povertà, quella che piace a San Francesco naturalmente, è la carità, di cui Francesco Agnoli, uno storico e saggista italiano, ci offre la grande storia. Il libro si intitola appunto La grande storia della carità, è pubblicato da Cantagalli, 214 pagine, 14 euro, e qui si parla soprattutto di ospedali che nascono soprattutto nel Medioevo. Prima c'erano state delle forme organizzate intorno alle primissime chiese, e già nel 390 per esempio la cristiana Fabiola aveva fondato a Roma un ospedale, seguita da altri esempi. Poi ci furono i monasteri, a partire da quelli orientali, fino ai primi grandi ospedali che si avvicinano a quella che è la concezione moderna, per esempio Santa Maria della Scala di Siena, e poi tante altre esperienze che portano alle testimonianze dirette dell'autore presso alcune strutture come quelle del Cottolengo di Torino, dove quotidianamente si esercita appunto la carità. E a questo punto... Il confettino. Abbiamo parlato poco fa di personaggi immaginari di Re Artù, e allora vi segnalo di un grande storico italiano, Franco Cardini, il libro Storie di Re Artù e dei Cavalieri. È pubblicato da Gallucci con le illustrazioni di Cecco Mariniello, 122 pagine, 16,50 euro. Questa è la storia della cavalleria in alcuni dei personaggi delle vicende più leggendarie, dal mago Merlino fino a Lancellotto e Ginevra. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.